Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, noi due siamo Alessandro Milan, Oscar Giannino. Caro Giannino. Oscar, come va? Buon giovedì, e questo giorno buon onomastico, che si chiama Mauro, oggi è San Mauro. E poi la Madonna di Loreto, vabbè, si festeggia anche la Madonna di Loreto. Mi è sempre piaciuta questa idea di poter contrabbandare dei ricchi commercianti che erano imparentati con dei nobili dell'Illiria, e che per questo, quando poi finisce la cosa delle crociate, si prendono un po' di mattoni da Nazareth e se li portano a Loreto, però diventa che la casa ha volato, la fantasia italiana, la casa della Madonna ha volato. Non è così, abbiamo i documenti, però insomma la Madonna ha volato. Allora, caro Oscar, ci sono tanti temi ovviamente di cui parlare. Uno è quello, se vogliamo riannodare i fili da ieri, no? Dalla vicenda delle banche. E sai cosa scrive oggi Francesco Manacorda sulla stampa? Mi ha molto colpito, usa questa immagine. Se domattina uno qualsiasi di noi si avventurasse in costume infradito sul Monte Bianco, non potrebbe poi sperare in un salvataggio rapido e garantito. Perché allora alcuni investitori che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate dovrebbero avere un trattamento privilegiato? So che la provocazione è forte, perché ancora mi scrivono: ah, ancora sostieni che la gente ha firmato e dunque deve pagare. Eh sì, lo so, sarà scomoda come posizione, ma sì. No, è una tesi. Francesco Manacorda è bravissimo, secondo me è uno dei migliori giornalisti di materia economica che ci siano in Italia, quindi io mi auguro che nei prossimi anni anche venga molto valorizzato. Io in realtà sono d'accordo anch'io, però ieri è stata una giornata, per chi si occupa di queste cose, storica, perché nella storia italiana non c'è mai stato uno scontro così frontale tra ciò che la Banca d'Italia ha detto nell'audizione parlamentare del capo della vigilanza e la Commissione europea. La Commissione europea ha replicato sdegnata, irata, dicendo alla Banca d'Italia: menti sapendo di mentire, cioè non è vero quello che ha detto al Parlamento italiano, e cioè che la modalità approssimativa con la quale all'ultimo secondo hai voluto salvare, intervenire su queste quattro banche prima dell'entrata in vigore delle nuove norme europee, te l'abbiamo imposta noi. Al contrario, l'hai scelta tu. E questo è lo scontro. È uno scontro brutale, perché ti ripeto, nei toni non si è mai visto un documento della Banca d'Italia e con repliche così pesanti. Allora, qui il problema qual è? Un po' quello che hai detto tu nella seconda parte della tua considerazione, cioè, se noi andiamo a vedere, la Banca d'Italia e la Consob hanno la coscienza a posto? Ecco, a questa domanda, che è relativa al valore della firma dei sottoscrittori di quei titoli, lo sapevano o non lo sapevano firmando? Sì. Giustamente uno dice sì, ed è così, anch'io la penso così. Però attenzione, nelle stesse norme emanate dalla Consob e dall'ABI, ricevendo quella della Consob e vigilate dalla Banca d'Italia, c'è scritto che quel titolo, quei tipi di titoli andavano piazzati dalle banche seguendo delle modalità che in realtà i vigilanti, la Consob e Banca d'Italia, non hanno mai poi vigilato perché fossero seguite. Quindi c'è un punto delicato, molto delicato. Ma come delicato è l'aspetto di quelli che dicono, e lo so che dirlo oggi, quando su tutti i giornali vedete la storia di questo pensionato che si è tolto la vita a 70 anni, lasciando una lettera dicendo: ho perso tutti i soldi alla Banca Etruria, scusate. Era la sua liquidazione della vita, quei 100.000 euro. Dispiace, cioè, umanamente, che appaio come il brutale, spietato, cinico, senza cuore, che dice: se uno ha firmato deve però farsi un esame di coscienza. Però sempre Manacorda dice: perché interventi di natura umanitaria se uno ha avuto un prospetto di 130 pagine e non l'ha letto e si è fidato e ha firmato? Ma fidarsi? Ma perché fidarsi? Ma la gente, se esce, non si fida del primo che incontra per strada? Perché in banca uno si dovrebbe coi soldi non bisogna fidarsi, bisogna ragionarci sopra della banca. E scegliere. Quindi il punto è questo qua. Diciamo che però ripeto, secondo me Banca Italia e i regolatori stanno tentando di evitare che si ponga il giusto, legittimo interrogativo chi, anche nella maggioranza, Scelta Civica per esempio, chi, per esempio Luigi Zingales, che secondo me oggi fa una bella intervista al Foglio su questo, dice ci vorrebbe una bella indagine approfondita che levasse la pelle a come i vigilanti non hanno vigilato sulle norme che loro stessi avevano scritto. Cioè noi scriviamo le norme in cui ci assolviamo la coscienza, sì, e poi non stiamo a vedere se davvero si mettono in atto. Allora su questo io condivido con te, chi è andato alla ricerca di rendimenti elevati che in banca ti facevano vedere con la colla in bocca ha scritto se l'è presi, del resto però chi li vendeva non doveva venderli, cioè in un paese normale titoli rischiosi si danno agli investitori istituzionali e non alle famiglie. In ogni caso 800 24 00 24, se volete parliamo di questi, cioè lo soldi che si sono vaporizzati, soldi invece che arrivano alla Camera per i partiti. Guarda. E qui il tono è gioioso, giocoso, bello, perché quando ci sono soldi che girano noi siamo felici, insomma. Certo, soprattutto quando ci dicono ogni volta che se li tagliano, che hanno abolito il finanziamento pubblico, sì, e che insomma l'eroico, in realtà lavorano sempre gratis per i 5 Stelle, io devo ammettere la verità, sono stupito. Infatti, tutti i giorni. Ma in questo caso bisogna dirlo, il Movimento 5 Stelle è l'unico partito, adesso poi magari si offendono se li chiamano partito, movimento, quello che vuoi, che ha detto come un cane che abbaiava la luna, dicendo questa è un'ennesima vergogna, è la fine della storia del DDL Boccadutri, te lo ricordi Boccadutri, che è stato ospite di noi. Cioè i partiti, pur non avendo i bilanci certificati, si sono cuccati e sono presi comunque 16 milioni di euro, sono tranne comunque il Movimento 5 Stelle. Se li sono presi comunque, e devo dire la verità, riescono anche bene nella media oggi, i giornali che si occupano di questo, tranne alcuni, però nella media passa anche l'idea che in definitiva poi i partiti, insomma, mica hanno tutte queste colpe, se i controlli non sono venuti, ci sarà perché c'era la commissione che doveva vigilare, ma non ha certificato. Ma in realtà i partiti non hanno messo questa commissione con il numero, l'organico di magistrati. Ecco, ma l'hanno fatto apposta, non è che non lo sapessero. Che se non gli davano le risorse per fare i controlli, dice non fai i controlli, ma non mi hai dato le risorse, ecco colpa tua. I partiti, devo dire, sulla linea di questa, come devo dire, apprezzabile disinvoltura esplicita, vogliamo un secondo commentare la meravigliosa intervista che c'è a Repubblica dell'onorevole Francantonio Genovese, lo sai. Sì, che dice i miei voti di inquisito me li gioco da Silvio, che come dire, sentite, se io ho le cippa variate le metto. Ma questa storia di Genovese è chiarissima, cioè ieri Micciche che ha portato Francantonio Genovese dal PD a Forza Italia ha detto quanto vale Genovese dai 50.000 voti in su, cioè la politica si misura coi voti, i valori, gli ideali, i valori, i portavalori, ma dai. Però, quindi almeno lì è disinvolto, ma è dichiarato. È dichiarato. Genovese dice il partito padrone oggi è il PD, c'è Renzi, e quindi vado da Berlusconi. Anche perché mi sono preso una benemerenza che lì mi varrà molto. 19 mesi di custodia cautelare, lì sono l'apice del partito, una medaglia subito. Ma come adesso? Lo dice lui, non lo dico io. Almeno apprezzo uno che dice della politica qual è la sua idea e non si mette come i partitanti a dire noi stiamo rinunciando ai soldi quando se li pigliano. In questa intervista dice anche che Cuffaro è una persona, insomma, straordinario, sta pur sempre finendo di scontare una condanna a 7 anni per associazione esterna alla mafia, l'ex presidente della regione Sicilia Cuffaro. Però aveva anche lui un'idea della politica incardinata sul tanto vale dire la verità. Quanti voti porti tu? 100.000? Cioè i 7? Ti prendo subito! Comunque, cari ascoltatori, mentre ci occupiamo di questo in Italia, in Francia, questa è un'altra notizia che ci ha colpito, Francia stanno discutendo, nel senso che il governo ha chiesto alla magistratura se ci sono gli estremi per mettere preventivamente in carcere le persone sospettate. Che il punto è non quelle su cui si hanno elementi tali per cui un giudice possa, i sospettati, il sospetto, cioè uno che non so, quelli dice, su cui si indaga, esatto, quelli che noi espelliamo, e in Francia vorrebbero fare, qualcuno dice, una Guantanamo in Francia. L'effetto più o meno è quello. Anche Guantanamo fu scelta come area extraterritoriale proprio per evitare problemi giuridici, perché erano persone in cui le indagini dell'intelligence eccetera eccetera, che però non venivano portate alla sbarra in processo, si tenevano lì per tirarne fuori informazioni e girargli un po' per qualche annetto, parecchi annetti anche, torcergli un po' le braccia. Esatto, privazione di diritti, però in nome della lotta al terrorismo. Beh, questo è interessante, fin dove spingersi, leggi speciali, non leggi speciali, l'idea è cosa si può fare e fino a dove ci si può spingere in nome di una lotta legittima al terrorismo. Beh, io naturalmente ho molti dubbi su questo. Hai molti dubbi? Sì. Perché hai timore che, insomma, che perdiamo così tutte le libertà che abbiamo conquistato? No, io dico solo che l'esperienza, anche Guantanamo, hai visto, Guantanamo sembrava l'eccezione post 11 settembre, è diventato una cosa di cui tutti i presidenti americani eletti prendevano la posizione e non riuscivano poi a mantenerla, non si sapeva più come chiuderla. È uscita gente da Guantanamo che poi è in realtà posto in essere attentati sanguinosi, cioè neanche a Guantanamo hanno capito davvero chi avevano. Quindi io devo dire, io ho fortissimi dubbi su questo, fortissimi dubbi. Secondo me, quando... cioè, se serva o no, forse altri mezzi di intelligence possono servire. L'intelligence può servire a colpire persone la cui gravità è rilevata tale che non vale neanche la pena di fargli un processo. So di dire cose terrificanti, però se non avvengono. Ma stiamo parlando del livello altissimo delle organizzazioni terroristiche. Mettere, fare le retate di centinaia di persone e metterle in un limbo né giuridico né ben preciso, nell'esperienza non è servito a molto nei paesi avanzati, però su questo. Però in Francia si discute, ovviamente. Vedo subito che Valls ha dovuto dire un'idea dell'opposizione, perché ha capito dalla reazione che veniva azzannato, come dire, raccolgo una suggestione del fronte lepenista, per dire. Però, di fatto hanno chiesto un parere alla magistratura, sì, quindi evidentemente chiesto. Si vogliono esplorare questo campo. Comunque, tante chiamate, noi poi parleremo anche di occupazioni delle scuole, ma più avanti. Prima diamo spazio a qualche ascoltatore. Vincenzo da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Eccoci qua. Io volevo parlare riguardo la popolare, la Casa di Spagna di Ferrara. Arrivo. Lei arriva. Allora, niente, io volevo fare una riflessione. Allora, nella realtà piccola di Ferrara, una provincia molto piccola e molto provinciale, si sa tutto di tutti. Quindi la Carifes si sa da 20 anni che era una cancrena. Sì. A me meraviglia il fatto di queste persone che adesso vanno a lamentarsi di che vogliono il rimborso delle obbligazioni. Sì. Perché non ci hanno riflettuto prima di prenderle? Quindi lei è della linea, si sapeva, non bisognava investire. Però Vincenzo, le posso fare una domanda? Siccome io, essendo venuto anche a Ferrara a parlare, non solo le ho ragione, però lei probabilmente confermerà, in questi casi, cioè Ferrara, Chieti, Arezzo, Ancona e così via, i vertici, i manager di quelle banche, di cui tutti dicevano, poi balbettavano e mugugnavano, erano però sostenuti dai vertici delle associazioni, degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, dei professionisti, dei notari, degli avvocati, che avevano i loro posticini nei CDA, eccetera eccetera. Questa era una delle ragioni per cui anche a Ferrara si mugugnava, ma poi alla fine tutti avevano i loro posticini. Tu dici il sistema in realtà si reggeva, no? Tutti avevano massima fiducia ai dirigenti di queste banche, quindi perché adesso si lamentano? Quindi lei dice, però, Vincenzo, lei ovviamente i soldi non li ha messi, perché se sapeva questa cosa. Sono 25 anni che sono uscito dalla casa. Bravo. Però qui la questione, Vincenzo, è interessante. Cioè, è chiaro che la legge non ammette ignoranza, però è anche vero che non tutti sono totalmente informati, non tutti prendono informazioni qua e là, non tutti sono così addentro, non tutti chiedono, non tutti. Per questo i regolatori, secondo le norme che dovrebbero essi stessi, ripeto, hanno scritto, chiaro. Perché se ti vedi le istruzioni di generale dell'ABI e della Consul sono chiare, le subordinate, ma tutti i titoli più rischiosi, a maggior ragione per un paese che ha perso un punto di PIL sui tango bond che solo in Italia avevamo dato alle famiglie, quel tipo di titoli andrebbe dato agli investitori istituzionali. E però i regolatori scrivono le norme, si girano dall'altra parte, e adesso la Banca d'Italia va ieri in Parlamento a dire d'ora in poi prendiamo in considerazione l'idea di non vendere questi titoli ai risparmiatori. Ma se c'è già nelle istruzioni di vigilanza dell'ABI e della Consob. Ecco, quando si arriva a mentire su questo è perché, Alessandro, ribadiamolo, perché oggi il Sole dice che la Banca d'Italia ha ragione, la UE la pianti, altri non la pensano così. In Italia c'è un blocco connivente di ceti economici dirigenti, con i manager bancari e i regolatori, che la piena trasparenza non l'hanno voluta. E questo è il motivo vero, non l'hanno voluta. Perché io capisco anche chi dice, ma come in queste quattro banche che adesso si mettono così, noi continuiamo a dare pacchi di centinaia di migliaia di euro agli amministratori nuovi delle banche che sono fallite, e un po' li capisco, non è che non li capisca. Allora, Massimo da Bologna, buongiorno Massimo. Buongiorno, abbasso la radio, scusate. Sì, grazie. Allora, Alino, Milan, oggi vince lei, mani sul volante. Bene. Perché dopo l'affermazione di prima, che dice avete firmato e quindi sapevate a cosa andavate incontro, voglio dire, lei non è mai andato a investire, sicuramente sarà andato in banca. Sì. Le danno dei plichi, io ho 45 anni, sono di Bologna, un borghese piccolo, come tanti. Le danno 50 fogli da firmare, e la mia banca va bene per fortuna, ma lei si è mai messa a leggerli tutti lì nel momento in cui, dopo che tu frequenti la banca per 10 anni, 15 anni, è ovvio che si forma un rapporto di fiducia, no? Eccolo lì, lo so, ma io sono non so, così mi ha insegnato mio papà, non mi fido, non mi fido, non so cosa dire, Massimo, non mi fido, cioè piuttosto non firmo, non mi fido. Perché uno deve avere un rapporto, e chiedo io, ribalto la domanda, perché dovrebbe avere un rapporto di fiducia nei confronti della persona che sta in banca, che è un'azienda, non è un ente di beneficenza, è la banca, non... lo so, però qui ognuno fa il suo, no? Il meccanico fa il meccanico, io faccio il salumiere e il bancario fa il bancario, se ti dà dei consigli al 99% delle volte ci prende, no? Ma no, perché se è lo stesso emittente, la banca è l'emittente del titolo che ti propone, lei capisce che c'è un conflitto di interesse evidente, perché loro hanno l'interesse per raccogliere capitale, le obbligazioni servono, sono uno strumento di raccolta, no, per la banca. Allora, se l'emittente è la stessa banca, ripeto, le regole vigenti dicono che dovrebbero profilare il cliente, spiegargli, guarda che è proprio nostro, quindi tu fai bene a dubitare, e in più ci si rischia. Lei giustamente dice, invece ti danno il pezzo di carta e queste cose non te le dicono, ma lei sbaglia a fidarsi, però, esatto, perché il titolo è loro. Ma poi io devo dire, Massimo, non è che io sono un sadico, cioè a me dispiace molto delle persone che ora sono in sofferenza per questa cosa, quindi non voglio la loro sofferenza, dico solo, ma scusate, se hanno firmato, ma come dice oggi Manacorda, ma se hanno firmato un qualcosa di così rischioso e senza informarsi, perché ora dobbiamo... stracciarci le vesti per salvarli, nel senso che tutti quelli invece che non hanno firmato perché saggiamente hanno detto no, io non firmo questa cosa perché quelli sono più sono meno tutelati, sono più ingenui, no, dovrebbero essere premiati come persone che sono, anche perché quelli che non hanno firmato si accontentavano di rendimenti più bassi, esatto, perché capivano che rendimenti più alti si offrono a fronte di cose più rischiose, questo è il punto. Detto la signora questo, che ieri non ha... godo per la sofferenza di nessuno, la signora questo che ieri ci chiaro. Ha telefonato e che diceva di avere un titolo che rendeva al 3%, ce n'aveva uno che andava più del 7 invece, tant'è che io non appena gli sono andato a dire ci dica quanto ha preso, ha detto che non se lo ricordava più, scusi, comunque la ringraziamo Massimo da Bologna. Dobbiamo dare diamo velocemente gli Oscar, ce la facciamo a dare velocemente gli Oscar, che ripristiniamo questa cosa, io lo devo dare a chi? A un cancelliere anonimo, non c'è il nome ma lo vorrei tanto sapere, quel cancelliere che ha dimenticato il nome di un avvocato nell'atto del processo all'Ilva, e per aver dimenticato il nome di un avvocato, perché la giustizia è fatta così, è saltato tutto il processo, bisogna rifare tutto, un nuovo atto, un nuovo giudice, nuove convocazioni, nuove, perché mancava un nome, si è sbagliato, oddio, si è sbagliato, ma voglio sperare che si sia sbagliato. Io credo che tutta questa vicenda Ilva è fatta di giudici che capiscono che andranno a sbattere, quindi noi abbiamo espropriato senza indennizzo e come vedi il processo non arriva mai. Sì, ho capito, ma qui non è una questione giudiziaria, è una questione formale. Il cavillo. Allora, anch'io do un Oscar in questo caso a un pezzo di giustizia italiana che mi fa letteralmente girare le scatole, perché c'è poco da fare. Gli signori potenti magistrati italiani sono una repubblica a parte. Potete dire che loro non possono stare, a differenza di tutti gli altri statali, al vertice di funzione apicale fino a 80 anni, potete scriverlo per legge, il governo si può battere, e loro ridono perché tanto quando si tratta di andarci il Consiglio di Stato impugna tutto e loro continuano a rimanere fregandosene di tutto al vertice dell'ufficio giudiziario. Quindi per una volta dico viva il Ministro della Giustizia che ha detto ah sì, il Consiglio di Stato blocca la norma che dice che devono andare in pensione, mollare almeno a 75 anni e io impugnerò, ma c'è poco da fare, i signori magistrati sono una repubblica a parte, se si tratta di loro privilegi come i partiti, come vedete. Allora, dopo la pubblicità parleremo di occupazione delle scuole col sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Allora, sono le 8:42 minuti, caro Oscar. Tu hai mai occupato una scuola? Ho partecipato ai tempi del liceo Alfieri, sì, e del resto facevo politica, guidavo una lista politica che all'epoca nel mio liceo faceva alleanza con la FGC di Rondolino, pensa un po'. Ma con la K occupavi ma, erano tempi purtroppo purtroppo da non avere nostalgia molto più violenti di questi nella scuola, quindi chiaro, non ne ho alcun alcuna nostalgia, ma erano tempi terribili. Comunque, insomma, è da 14 giorni che c'è un liceo, il Virgilio, occupato a Roma, e la preside chiede l'intervento addirittura delle forze dell'ordine, tanto che c'è stata e c'è una mediazione in corso del ministero. Salutiamo Davide Faraone, che è sottosegretario al Ministero dell'Istruzione. Buongiorno Faraone. Buongiorno a voi. È davvero così? Cioè, deve scendere in campo il ministero e deve scendere in campo lei? Cioè, titolo a tutta pagina del Messaggero. Cioè, vertice al ministero per il Virgilio. Ma ci spieghi un po' che sta succedendo? Ma io sdrammatizzerei un po', nel senso che ci sarà un incontro stamattina. Ieri ho incontrato gli studenti che avevano chiesto un incontro al vertice del ministero, e ho incontrato anche la dirigente scolastica che ha fatto lo stesso. Oggi li incontrerò insieme, perché molte delle questioni poste dai ragazzi, che sono comunque rappresentanti di istituto, quindi sì, eletti democraticamente certo, dagli studenti, quindi non stiamo parlando di persone che occupano così senza avere comunque una legittimazione, una rappresentanza a scuola. Quindi l'incontro in questa veste, più che nella veste di occupanti, l'incontrerò. Molte delle questioni sono legate a vicende interne alla scuola, quindi cerchiamo di risolvere. Sì. Ma guardi che giustamente Oscar mi fa vedere sul Messaggero, c'è Gabrielli che parla di situazione delicata, la questura sta valutando. La questura, cioè, sta valutando il prefetto Gabrielli. Ma che sta succedendo? Ma è vero che c'è una richiesta di un intervento delle forze dell'ordine da parte della preside? Ma è vero, nel senso che comunque da parte di alcuni genitori, alcuni insegnanti, anche da parte della dirigente scolastica sono emerse alcune questioni di preoccupazione rispetto al tema dell'ordine pubblico e della sicurezza. Hanno fatto vedere anche un po' delle fotografie di ragazzi incappucciati che organizzano eventi all'interno della scuola. Quindi comunque sì, non c'è una situazione che può andare tranquilla, avanti in maniera, diciamo, serena, per cui bisogna intervenire e farlo con le armi della democrazia e con le armi della parola e non dello sgombro. Ma anche perché sono 14 giorni che vanno avanti, quindi le lezioni saranno sospese, immagino. Ma le lezioni sono sospese, abbiamo anche genitori che cominciano a incazzarsi, diciamo, anche un po'. Altri studenti che vorrebbero riprendere l'attività didattica, però ripeto, siccome è tutto sotto controllo rispetto all'idea di poter far ripartire un dialogo, noi lo stiamo semplicemente favorendo. Sì, ma non lo so, sottosegretario, ricordo che lei fece questo intervento, tra l'altro, a dire anch'io ricordo le occupazioni, come Giannino, dove nacquero anche amori, relazioni, dove nacque la passione politica, dove nacque il senso di combattere. Quindi valgono ancora quelle parole, ma valgono le occupazioni. Ma io, proprio perché le ho fatte, mi dà un po' fastidio chi ipocritamente oggi, che è più maturo, li guarda con ilarità. Io le ho fatte, l'ho vissuto, è stato un tempo della mia vita che è importante, che non rinnego, anzi che mi ha fatto crescere tanto, quindi do valore anche a questi momenti di partecipazione democratica che i ragazzi mettono in campo nelle scuole. Poi naturalmente a volte si esagera e quindi bisogna intervenire. Oscar, a fare interventi per far sì che tutto ritorni alla normalità. La questione, non so se è di polizia, oggi Mario Giordano su Libero dice, ma in fondo cosa vogliono? Il bar apre alle 7:40 invece che alle 8:10, si deve poter entrare anche dopo le 8:10. Insomma, Mario Giordano li prende un po' in giro a dire vogliono la scuola creativa, no, la scuola. Allora tu che dici? Io dico che, appunto, siccome uno c'è passato, io però ripeto, erano anni terribili, giravano armi, insomma, a Torino abbiamo fatto più funerali in quegli anni. Per fortuna niente di tutto questo c'è oggi nella realtà delle scuole italiane. Sì, è ovvio che ci sono anche aspetti di questo tipo. Io credo sempre che ci sia un problema quando le cose assumono questa veste, si arriva al prefetto. Questo vuol dire che il dirigente scolastico è, insomma, un pezzo evidentemente rilevante dei professori, non ha molto dialogo con gli studenti, con chi organizza queste cose, che sono poi, insomma, non sono tanti, no? Quelli che organizzano poi queste cose, si sa chi sono. Allora, avere un dialogo è un dialogo che serve sia per l'offerta formativa, cioè per quello che si fa a scuola, ma anche per evitare poi che queste cose, quando avvengono, sfuggano di mano. Questo è il classico esempio di una cosa sfuggita di mano. Ma certo. Perché poi siamo arrivati, io vedo lì, alle telecamere interne, allora, ma qualcuno ha pensato che fossero sottosegretario del prefetto. Allora, nostro è un appello, perché i ragazzi probabilmente non ci stanno ascoltando, ma per gli insegnanti e i dirigenti scolastici bisogna stare proprio dietro alla testa dei ragazzi e bisogna non perdere mai il contatto con loro. Io per esempio ho avuto dei dirigenti scolastici nel nostro liceo Alfieri che da una parte erano terribilmente conservatori, sto parlando di tantissimi anni fa, sì, sì. Dall'altra però capivano che in una situazione nella quale appunto giravano, hanno ucciso il padre dell'ingegner Ghigliano, il comitato strategico della Fiat, di fronte al nostro liceo la mattina prestissimo, quelli terroristi, capivano che non dovevano mai perdere il contatto con noi. Ecco, credo che questo sia uno dei compiti più difficili per chi fa scuola, però è un compito sempre importante. Non so che ne pensa il sottosegretario su questo. Io la penso esattamente come te, nel senso che credo che, anzi, favorire dei momenti organizzati di partecipazione democratica alla vita pubblica e far sì che la scuola diventi un soggetto sociale, non soltanto un luogo dove si impara a studiare, credo che sia una delle funzioni che la scuola italiana deve conquistare, perché non l'ha per nulla conquistata. È un'assemblea di istituto in cui si discute di temi d'attualità a scuola, deve diventare ordinaria, non deve essere. Sì, ma un'assemblea d'istituto, io non voglio, io invece voglio fare quello un po' controcorrente. Io sarei per il pugno di ferro, cioè cattiveria. No, quando sfugge di mano. Ma no, ma voglio dire, ma un conto, mi scusi, Faraone, un conto sono tutte le rappresentanze democraticamente elette all'interno della scuola, le assemblee, se volete, ogni tanto anche un bello sciopero, così invece di andare a scuola si va a farsi una canna oppure si va a farsi la partita biliardo, va bene, però dai, l'occupazione 14 giorni, ma io giorni ma sfuggita di mano. Io cioè, lei, secondo lei è normale arrivare a 14 giorni di occupazione? No, assolutamente, infatti parlavo di strumenti ordinari che possono benissimo essere anche addirittura più efficaci, delle occupazioni che possono essere figlie di un dialogo con i dirigenti scolastici e gli insegnanti. Esatto. Questi strumenti di partecipazione vengono condivisi da tutta la comunità scolastica e non sono vissuti come una forzatura di una parte degli studenti, secondo me sono anche molto più efficaci, per cui le occupazioni io le limiterei proprio al minimo, e anzi non le farei proprio se ci fossero. Le ha fatte, però, le ha fatte però. Lo so. Le ha fatte. Oddio, anche prima io ero giù a protestare al MIUR, ora sono invece su al MIUR a subire le proteste. La vita è fatta così, è fatta a scale, c'è chi scende, c'è chi sale, caro. Però ripeto, i tempi sono diversi. Cioè, io faccio un esempio, a noi quando bruciò vivo, arso vivo da una, lo ricordano tutti a Torino, bruciato all'interno del bagno di un bar via Po, un povero studente fuori sede all'Angelo Azzurro, e di fronte alle fotografie che erano terribili della morte di questo ragazzo che fumava ancora di fronte ai nostri occhi, il preside ci disse: no, non facciamo una mostra fotografica nel nostro liceo, è troppo dura. Allora noi, a dire la verità, diciamo no, proprio perché queste foto parlano da solo, sono terrificanti, noi la vogliamo e ce la prendiamo la cosa. Certo, faccio questo esempio, Alessandro, per dire adesso, esatto, non voglio, ah, è un esempio estremo per dire che terribile, certo, no? Per terribile. Dire che forse fa capire che le occupazioni di oggi sono un po' una macchietta rispetto alle occupazioni, ecco. No, io questo non lo voglio dire, ma certo, 14 giorni hai ragione tu, non esiste, cioè, sembra un po' una tra l'altro devo dire che rispetto agli altri anni il fenomeno si è molto attenuato, cioè quest'anno le occupazioni sono veramente dei casi isolati, quindi fa più. Ma tra l'altro protestano contro la buona protestano contro la buona scuola e lei va a incontrarli, ma protestano contro di lei, contro la riforma di Renzi. Ma io devo dire che tutto ciò che protesta, ma che poi tira fuori anche delle idee che ci possono essere utili per correggere i provvedimenti, sono ben accette. Sono quelle proteste ideologiche a prescindere che mi impattano. Vabbè, abbiamo un minuto, sottosegretario, ci deve dire qualcosa su Francantonio Genovese, che lascia il PD e va in Forza Italia, siciliano come lei, e quindi lei lo conoscerà. Insomma. Ma che vi devo dire? Io credo che sia, quando accade un fenomeno di questo genere, un fenomeno che è sbagliato per chi, al di là di tutti i torti che può pensare di avere subito, perché leggo intervista da parte di Genovese che dice che c'è stata una vendetta nei suoi confronti, un punto di vista giudiziario e quant'altro. Io credo che se faccio parte di un partito, come un Partito Democratico, anche se subisco un torto di questo genere, al limite smetto di fare politica, ma non vado dall'altro lato. Non vado dall'altro lato. Però questo è il mio... Ma della capogruppo all'ARS del PD, dei sette partiti in tre anni, di quello che dice? Capogruppo del PD, dopo aver passato sette partiti. Ma qui si è creata, diciamo, una favola, nel senso che stiamo parlando di una persona che è stata eletta nel centro-sinistra, che era eletta in una lista civica di centrosinistra, quindi non stiamo parlando di un cambiamento di sette liste nell'arco costituzionale italiano. Diciamo, non è andata da Forza Italia al PD, però ha sempre cambiato sette casacche. Ma anche le liste, quando si fa la somma delle sette, era sempre la stessa lista che cambiava nome o che aveva un'evoluzione, perché alla fine giornalisticamente si dice che sono sette, ma alla fine sono tutte... sono all'interno del transito di una persona che comunque è sempre stata dentro lo Spirito Democratico e coerente un percorso cambiare di idea e partito è democrazia, cioè, diciamo, però... liste non è passata da qua a là, ecco. Come Genovese dice. Va bene, la dobbiamo salutare, Faraone, la ringraziamo. Continuate, Davide Faraone, cari sottosegretario, continuate con Radio 24, Mix 24 con Gianni Minoli, mi raccomando. Però a me chi cambia troppi partiti in un anno non mi ha convinto, Faraone, non ci posso su fare questo niente. Non ci ha convinto. Va bene, vedremo l'occupazione se finisce. A domani!